matata na album kikala kala ma soya ma soya ah bele bele bazina mama bele bele bazina mama ebu sema kikase munugu tukilimuna ebu sema kikase munugu tukilimuna mudiamu kana kumuta kubu jiri kange bazemisa mudiamu kana kumuta kubu jiri kange bazemisa bele amakede bele bazina mama bele amakede bele bazina mama Matata! Ana wiri buna kumuna! Beli matata! Demu tukadia jinkwenu! Hey! yina kwani kofela ma Yema ma beokalembi mazon Beokalembi mazon uri chaki bori yina kwani kofela ta Ma ma godi godi godi godi ma Beni matata Ma ma godi godi godi godi ma Beni matata Ma ma godi godi godi godi ma Beni matata Namuni bondi la kudyop Beni matata Namuni bondi la kudyop Beni matata Bashene Tamagu kifwe Bana bungwe Tamagu kifwe Bana bungwe Tamagu kifwe Bana kinye Tamagu kifwe Bana kinye Tamagu kifwe Tanga jure Tanga jure Tanga jure Tanga jure Tanga jure Tanga jure Mama, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Mama, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi,